140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Cinema e teatro nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Cinemanteo, Milano. Fuggire in Amazzonia per capire chi siamo è il viaggio di Augusta Jasmine Trinca in Un giorno devi andare. Il regista Giorgio Diritti. Ma io vado fino in Brasile in Amazzonia perché l'Amazzonia ha la forza prerompente di una natura che interroga, che ci ridimensiona, ci fa diventare un po' più piccoli, e quando appunto diventiamo un po' piccoli forse ci accettiamo anche di più, incominciamo a capire il nostro ruolo nel mondo, o comunque, se non la capire, a ridimensionarlo, e da lì nasce magari un desiderio di ricerca. Vado in Amazzonia perché ci sono persone straordinarie che nella semplicità hanno ancora un'autenticità nel rapporto con gli altri, cosa che noi invece in alcuni casi abbiamo perso. Vado in Amazzonia perché c'è calore umano, c'è sole, luce, c'è pioggia. E tutte queste cose smuovono, secondo me, e aiutano un percorso. Però credo che l'andare sia a prescindere, no? Un po' come dice il titolo, cioè uno può anche andare nel cortile di casa, nei giardini, ma con un atteggiamento che sia soprattutto quello di non assuefarsi a una quotidianità in cui le cose si fanno perché si devono fare e basta. È un momento anche storico di ricerca di senso. Tutti in un momento difficile cerchiamo un senso al di là della nostra cultura, della nostra società. Il personaggio di Augusta, appunto, continua a cercarlo. Come hai deciso di mettere in scena questa ricerca di spiritualità, ma non solo? Ma ho fatto un percorso che sicuramente in parte mi assomiglio o assomiglia a percorsi di altre persone che ho incontrato, no? Ad esempio, il film nasce anche da suggestioni raccolte 10 anni fa, quando sono stato lì assieme a Fredo a fare dei documentari. Ricordo che allora ci colpì molto il racconto di una figura di un missionario che era andato lì e che si era isolato nella foresta in una ricerca spasmodica quasi di un segno di Dio, e quindi in una fede che era quasi in un'interrogazione. E quindi il percorso che faccio segue un po' la traccia anche del discorso dei missionari, perché spesso la presenza in quei luoghi nasce dall'azione dei missionari, ma si svolge poi secondo dinamiche diverse, perché la volontà era quella appunto di far scaturire quasi in ogni spettatore il desiderio di iniziare a camminare, di porsi in una logica in cui si va a capire quali sono le priorità. Io sono scappata dal dolore e ovunque provi a guardare è lì, è dentro di me. Che ha lasciato sua moglie perché non poteva più avere bambini, e lei doveva andare fino là nella foresta. Credo di non essere qui per dimostrare a me stessa che so vincere la paura. Sono qui per scoprire altri valori. Tu sei contenta se riesci a farli battezzare, sposare, confessare? Perché dobbiamo fargli fare delle cose che non capiscono? Puoi sempre capire tutto. E non preghi abbastanza. E sua figlia? L'ha sentita per le feste? Sì, sta bene. C'è l'elemento femminile, c'è l'elemento del gioco, del divertimento, della verità dei bambini, e c'è l'elemento della comunità, che è un altro elemento che torna nel tuo cinema. Sì, perché la comunità mi piace, potrei dire, nel senso che la condivisione è una delle cose fondamentali del rapporto nella vita. La troupe è una comunità, il gruppo di Bologna, di persone che lavora con me, oppure anche Fredo che non è di Bologna, eccetera, però insomma siamo anche molto amici, e credo che la relazione sia la base per vivere bene e stare bene. Penso che sia una riflessione che dobbiamo porci anche per come la società deve evolvere. Troppo spesso ci sono scelte edonistiche, egoistiche, e invece una relazione di comunità ci rapporta a un concetto base, cioè il bene del singolo deve passare, credo, dal bene della comunità. Ora voglio essere terra, terra con la terra. E perché la terra dia frutti, devo dimenticarmi di Dio. Se ouso confessar-te, é de sempre amar-te, a flor. Se vuoi cambiare le cose, devi andare dove le cose bisogna cambiare. Ciao mamma. Ciao. Avevo voglia di vederti. Tutto. No. Un giorno senti che devi cambiare vita, che non puoi più stare dove stavi, che devi andare, devi essere, devi sperare. Girare questo film però ha, immagino, comportato delle difficoltà decisamente maggiori rispetto a quelle dei film precedenti, perché ti sei inserito in una cultura talmente diversa da avere anche poca familiarità col concetto di cinema. Sì, sicuramente ci siamo trovati in condizioni in cui le persone non avevano mai visto un film, ad esempio, nei villaggi indios, quindi era difficile trasferire certe dinamiche che sono magari nel ripetere le cose tante volte. Oltre a questo, la logistica, la distanza, il caldo incredibile che veramente sfiancava soprattutto la mente. Però tutte queste cose, secondo me, hanno avuto anche dall'altra parte il valore di farci incontrare situazioni e persone, di dare al film un senso di verità e allo stesso tempo anche di scoperta. In fondo noi ci siamo mossi di fianco ad Augusta come se raccontassimo il suo sguardo assieme al nostro. Ah, eccola! Teresa, bella! Ciao Franco, ben arrivata! Ciao, care tutte! Oh Anna, che bello vederti! Teresa! Questa è Janaína e viene dal Brasile. Janaína, benvenuta. Ti presento le nostre sorelle. Corrada. Ciao. Livia. Ciao. Giustina. Emilia. Ciao. Monica. Maddalena. Agnese. Anna e Chiara. Anna, lei è Janaína, l'amica di Augusta. E la Nau è una freira, è la mamma di Augusta. So che hai affrontato questo film in un momento difficile della tua vita personale, un momento di perdita, un momento di lutto. Cosa ti ha dato questa esperienza dal punto di vista, l'esperienza di girare questo film dal punto di vista umano, quella di andare? Ma la mia esperienza di lutto in realtà si lega al primo viaggio, nel senso che era da poco morta mia madre, e quindi c'era la necessità di capire un po' delle cose. Il lutto ti interroga inevitabilmente, no? La fine della vita, ti interrogano sul valore della vita. E ho pensato che questo voleva essere un po' il cuore del film, cioè ritrovare il senso e la priorità del valore della vita. Poi curiosamente nel destino di questa avventura particolare anche il percorso con Jasmine ha toccato punti simili, perché anche lei si è trovata a fare questo percorso uscendo dalla stessa situazione, perché una settimana prima delle riprese anche sua madre è andata altrove. E questa cosa però ci ha anche molto rafforzato, ha dato secondo me un senso di unicità. Spesso a me piace pensare che queste nostre mamme, insomma, ci hanno accompagnato in questo film, ed è una sensazione che detta qui tra i vetri delle città può avere, come dire, così, una relatività e far sorridere, ma lì era una sensazione molto più forte. Deus está aqui e quer uma vida melhor para todos. Que esse pão e esse vinho sejam os alimentos da nossa fraternidade, da nossa igualdade, da nossa solidariedade. Para dançarmos juntos contigo, Senhor, aqui na Mãe Terra, a festa da vida. Senti, è vero che hai pensato e addirittura girato più di un finale? Beh, diciamo che ho girato sì più situazioni e le combinazioni in montaggio erano leggermente diverse, nel senso che quando si arriva alla fine del film, bilanciare ogni cosa vuol dire trovare il giusto equilibrio, e quindi c'erano anche ipotesi, diciamo, più risolte, no? In cui era più evidente magari il futuro di Augusta, una sua dimensione di appagamento. Addirittura ho girato anche un'ipotesi in cui la madre andava in Manaus, cioè a cercarla addirittura lì. Però poi alla fine, quando sei nello svolgimento del racconto, soprattutto che muta mentre stai girando e prende corpo ancora più definitamente, allora ti accorgi che in montaggio la scelta di mettere una cosa o l'altra diventano fondamentali per la coerenza. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa, cinema e teatro, nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Cinema Apollo, Milano. Bianca come il latte, rossa come il sangue, bestseller che ora diventa film. Come si è sentito Luca Argentero nei panni del professore? Vecchi, si sente invecchiati, drammaticamente cresciuti, con qualche capello bianco in più, ma con la consapevolezza che il tempo che passa è anche una bella cosa, perché poi ti trovi a lavorare con dei ragazzi così bravi, così pieni di talento, insomma, Filippo, Aurora... Filippo soprattutto, perché il mio personaggio lavora quasi esclusivamente con lui, è veramente un ragazzo dotato di un talento, un diamante, quindi è stata una bellissima esperienza. Però è vero, se ci si rende conto che il tempo passa, che arrivano copioni, cioè cambia la percezione che gli altri hanno di te, questo che è strano, perché ti vedono ormai come insegnante, non più come studente, ti vedono come genitore, non più come figlio, fa un po' impressione, però è divertente. A proposito, oggi volevo parlarvi di un libro che, beh, devo dire, mi ha cambiato la vita. A voi è mai successo? Io, a me sempre. Ogni volta che leggo un libro mi cambia la vita, perché mentre lo leggo vorrei fare altro. Che bello, abbiamo il comico. Venga la lavagna. No, come la lavagna, prof? Non mi può interrogare il primo giorno. Ma infatti, però visto che è tanto coraggioso, oggi fa lezione a me. Va bene. Ok. Cosa vuole che le dica, prof? Parlo di calcio. Comunque guardi, è semplice. Prende il registro che ha davanti, lo apre, poi sfoglia i nomi, cerca il suo e si mette un bel 4. Una certa responsabilità, perché un libro scritto da un professore che ha avvicinato molti ragazzi alla lettura, da professore e da scrittore, e tu sei un po' il suo specchio in qualche modo. Beh, si dice che quando un libro, mi ricordo chi lo diceva, che quando un libro vende più di 200.000 copie vuol dire che lo stanno leggendo anche persone che normalmente non leggono, quindi credo sia stato il primo libro per molti, e questa è una grandissima responsabilità, come dici tu, ed è una grandissima responsabilità normalmente portare al cinema un film tratto da un libro, per cui è ovvio, insomma, rassicuro i tuoi ascoltatori che ci siamo presi delle licenze. E in un libro hai tante pagine per raccontare delle cose, in un film a volte devi essere più ficcante, più diretto, più conciso, e penso alla box che nel libro non c'è, nel film c'è, insomma ci sono delle cose che spero non vi daranno fastidio. E io sono contento che Alessandro piaccia il film, che Alessandro D'Avenia piaccia il film, ci ha seguito lungo tutto il percorso, nella preparazione, nella produzione, è stato molto vicino al progetto, quindi fa piacere sapere che questa versione di lui gli piace, e spero che piacerà a quelli che hanno amato il libro. Tutti abbiamo voluto un professore come lui. Tu? Io ho vissuto una scuola non così moderna, una scuola ancora un po' legata al modello un po' più vecchio, e quindi ho avuto dei professori di cui ho molta molta stima, che mi piacevano e che mi hanno insegnato anche delle cose al di là della materia che insegnavano, però forse non così contemporanei come Alessandro con i suoi ragazzi e come ho cercato di essere io con gli altri ragazzi del film. Lo faccio da più o meno 4 anni. Serve per scaricare la rabbia, capito? Però prometto che non infierisco. Guanti su? Sì. Dai. Che cazzo sono questi pugnetti? Dai! Chiudi la guardia! Non muovi le gambe! Sì, zitto un po'! Però hai ragione. Va bene sfogarsi. E allora sfogati, eh? Parlami. Cosa c'è che mi va? Dai, cazzo, parlami! Però nei titoli di coda non sei il professore, sei il sognatore. È la prima volta che ho un personaggio che non ha un nome proprio, ma è il sognatore. E racchiude nel suo nome il messaggio che porta con sé. L'oggetto delle sue lezioni spesso verte sull'importanza del sogno, su quanto è importante avere il coraggio di inseguire i propri sogni, quindi è una definizione che lo accompagna. L'attore è un sognatore per eccellenza, oltre ad essere il precario per eccellenza. Se non si sognasse, sa, anche questa precarietà fa sì che è uno stimolo, non è una condizione che vivo, nonostante il periodo storico in cui la parola precarietà fa paura a tanti, giustamente a molti, dall'altra credo che debba diventare uno stimolo. Cioè, l'ideogramma cinese della parola crisi ha due significati molto diversi, vuol dire difficoltà, crisi, e vuol dire anche opportunità. Quindi se questo vuole essere un piccolo messaggio da sognatore, allora che sia questo. Noi adulti, appunto, nella generazione del professore, siamo immersi in questo clima di sfiducia e di tristezza. Invece è giusto che i ragazzi abbiano uno sguardo diverso, più colorato, più pieno di speranza. Nel film c'è questo colore, questa musica, questa speranza, nonostante, insomma, la conosciamo, in tanti la conosciamo, la storia del film è una storia con tante luci e ombre. È la vita, nel senso che la vita è fatta di luci e ombre, l'adolescenza soprattutto, sono i momenti in cui sei felice come non lo sei mai stato in vita tua, e mezz'ora dopo, ma perché ti arriva la telefonata di un amico o quella ragazza che ti piace gira lo sguardo e non ti guarda, sei la persona più triste del mondo. Sono degli sbalzi anche ormonali che ti portano a essere completamente indecifrabile, completamente travolto da questa ondata di cose, di emozioni, di input. Coltivare, per tornare alla tua domanda, coltivare con loro l'idea che sognare è indispensabile è un messaggio che sposo proprio con tutto me stesso, ma perché io ci credo ancora ai sogni, io lo sto vivendo il mio sogno, io sono un fortunato perché l'ho realizzato un mio sogno, lo vivo, faccio un mestiere che mi appassiona, vivo una vita felice, ho trovato l'amore, cioè io il mio sogno ce l'ho, però bisogna crederci, se non ci credi quasi è impossibile che si realizzi, quindi credeteci. Piccolo Teatro, Milano. Un testo del 1948, eppure attualissimo. In Le voci di dentro di Edoardo De Filippo, insieme al fratello Peppe, c'è Tony Servillo. Nel caso dei grandi classici, dei grandi autori teatrali, la forza dialogica, la capacità conversativa che hanno questi testi con il pubblico va al di là dei tempi. Perché hanno messo sempre al centro l'uomo con le sue eterne questioni, no? Questo testo racconta di rovine morali, scritto nel 48, che sono venute a seguire quelle materiali del dopoguerra, e mette al centro, con un grande anticipo sui tempi, una questione che in Italia è rimossa o da alcuni politici del passato considerata centrale e nonostante ciò nuovamente rimossa, una questione morale. Edoardo parla di un precipizio morale nel quale rischiamo di cadere, che rende sempre più labili i confini tra ciò che è legittimo e ciò che è illegittimo, autorizzando il crimine, quale che esso sia, quello efferato, sanguinario, o quello morale, quello del comportamento di tutti i giorni, come se fosse una cosa normale, ormai acquisita, come se fosse ciò che bisogna fare piuttosto che ciò che non bisogna fare. Attraverso un teatro popolare che però dopo Edoardo si è fatto troppo poco, forse non si è fatto più in quel modo. Diciamo che Edoardo è stato, amava ripeterlo anche lui, io sono l'epilogo, nel senso che riteneva di essere l'ultimo rappresentante in questo paese di un teatro il cui rito fosse percepito dal pubblico come una necessità da andare a officiare. lui come attore, drammaturgo, e il pubblico dall'altra parte. Naturalmente questo è avvenuto anche perché sono cambiati i tempi, le tecnologie. Oggi probabilmente si aspetta un film di un grande autore, no? Per interpretare la realtà. Lui era un grande autore popolare in questo senso, nel senso che aveva stabilito su certi temi e su un modo di recitare, su certi linguaggi, una relazione diretta con il suo pubblico che lo attendeva. In questo senso era un grande teatro popolare. Una delle fortune di un attore è quella di vivere altre vite, anche se sulla scena, scegliersi altri compagni. E questa commedia di Edoardo avrebbe potuto consentirle di scegliere un altro fratello, e invece no, lei ha portato sulla scena Peppe Servillo, suo fratello. Sì, ho pensato questo abisso morale, questo precipizio che viene raccontato in questa commedia, che ha al centro il rapporto aberrante, il fratricidio che c'è tra questi due fratelli, Saporito, questo è il loro cognome, fosse comunicato in maniera più eccitante al pubblico, se il pubblico avesse contemporaneamente la consapevolezza di vedere due fratelli che interpretano due fratelli. Questi giochi di scatole nel teatro vi sono sempre stati, quindi non è una novità, e io semplicemente non ho voluto rinunciarvi, non ho voluto privarmene. Piccolo teatro, un luogo importantissimo, la casa degli attori, ha detto. Per noi è stata una casa in questi, è una casa in questi 10 anni, dove se non avessimo avuto il sostegno del piccolo non avremmo avuto grandi tournée internazionali, non avremmo condiviso delle grandi sfide sul piano internazionale, portando i nostri spettacoli, il Goldoni prima e questo qui che già si annuncia con una bella tournée internazionale in giro per il mondo, e soprattutto non avremmo avuto la possibilità di continuare a fare un teatro che rifugge le motivazioni commerciali e invece cerca con le istituzioni il senso civile di questo mestiere, insomma. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e alle 19:30.